Surreal to music. Står sulle mentre di notte, flow si manca, cuore tornando nero, oh my god. Vorrei tra le rose di questo letto, piumato perfetto, di te che scalderesti di letto, mondo perfetto, letto di notte, e sì, calore, ore rotte, bombe fuote, solo su una pioggia di fiori sul mio fara, questa è anima e ansia amare, ritorno di Abraham Lincoln. Legge per sfida contro un campione di uno stato già vinto. Lirica boss, ascolto, dice tutto, detto tutto, figlio di un farabutto, che da squalo si è mangiato tutto e tutto, al figlio letto perfetto, canto, ripiglio di letto, sto sul letto di notte, flow si manca, un cuore tornando now, oh my god, vorrei tra le rose di questo letto, piumato perfetto di te che scalderesti di letto, un mondo perfetto, letto di notte, calore, ore rose, bombe fuote, fuote, fuote, solo su una piazza di fiori sul mio labbra, questa è anima e a sgabare, avrà l'ico che tornerà, solo questo stato farabutto che si è mangiato tutto, lirica boss, ascolto dice tutto, detto tutto, il mio quartiere è lutto, figlio di un farabutto, don che da squalo si è mangiato tutto, è tutto al figlio letto perfetto, canto, ripiglio di letto, sto sull'andando di notte, flow se manca un cuore tornando now. Oh my god, vorrei tra le rose di questo letto piumato perfetto, te, di te che scalderesti di letto, mondo perfetto, letto di notte, calore, ore rotte, bombe forte, solo sulla pioggia di fiori sui miei fra, questa è anima e a sgabare, lirica boss, ascolto, dice tutto, detto tutto, figlio di un farabutto, che da squalo si è mangiato tutto, e tutto il figlio letto perfetto, canto, ripiglio di letto, sto sull'andando di notte, flow si manca, un cuore tornando now, oh my god, vorrei, tra le rose di questo letto piumato perfetto di te, che scalderesti di letto, mondo perfetto, letto di notte, calore, ore rotte, bombe forte, sono su una pioggia di fiori sui miei fra, questa è anima, è a sgabare, è a sgabare, è a sgabare. Lirica boss, ascolto dice tutto, detto tutto, il quartiere è lutto, figlio di un farabutto, che da squalo si è mangiato, tatuato, tutto, tutto, tutto, figlio letto perfetto, canto ripiglio di letto, sto sull'andando di notte, forse manca un cuore tornando, now, oh my god, vorrei tra le rose di questo letto, piumato perfetto di te, che scalderesti di letto, un mondo perfetto, letto di notte, sì, calore, ore rotte, bombe, e che cazzo ce ne fotte.